Allora, 12:20, iniziamo questo breve giro in un paio di situazioni in cui il piano casa avrà dei riflessi che hanno da tempo iniziato a preoccupare soprattutto le realtà antagoniste, che si trovano a fare i conti con le procedure e i piani speculativi che prendono le mosse proprio da questo provvedimento. Intanto la settimana scorsa già ci eravamo inoltrati lungo una discussione che è stata avviata proprio in merito alle speculazioni su Tor Pignattara, e continuiamo, insomma, diamo un po' di continuità a questa vicenda. Noi siamo con Fabrizio al telefono. Ciao a tutti i compagni. Dunque, c'è stato un momento di dibattito proprio lì in zona. Guarda, vi parlo brevemente di una riunione che c'è stata venerdì scorso a Tor Pignattara Maranella. È stata una riunione che è stata liberamente organizzata dai compagni e rivolta a tutta quanta la cittadinanza del quartiere. E non a caso sono stati scelti slogan come cittadini e cittadine contro il procemento, piuttosto che utilizzato lo spazio della sala consigliare del municipio. Si cerca quindi di allargare la lotta non solo agli attivisti consapevoli, ma anche alle persone che si vedono trasformare quotidianamente il territorio che vivono senza riuscire mai a decidere o a intervenire. La questione, insomma, è stata già illustrata la scorsa settimana, però faccio un brevissimo riassunto. A Largo Perestrello negli ultimi mesi è stato sottratto un terreno alla libera coltivazione di un orto da parte di un signore, e sono cominciati gli scavi. I compagni che si occupano dell'orto insorto, che è una realtà organizzata che occupa e rivendica gli spazi di autogestione scegliendo la terra da coltivare come punto di partenza, ha cominciato a monitorare il territorio là di Tor Pignattara dopo aver notato il sorgere degli scavi finalizzati alla ricostruzione delle palazzine. E quindi si è deciso tutti e tutte insieme di riportare all'attenzione delle persone, cioè, il perché proprio ora, cioè, si stessero moltiplicando questi episodi di speculazione, cominciando prima noi a studiare e poi a comunicare il contenuto, insomma, di quello di cui si è parlato fino adesso, del famoso piano casa della Polverini, della giunta Polverini. E mo adesso non torno nei tecnicismi di cosa comporta la legge, anche, cioè, se sarebbe comunque interessante, però cioè, vi dico com'è andata questa riunione in sala consigliare. La partecipazione c'è stata, è stata molto ricca, però c'è da notare come siamo stati tutti gruppi o individui che sono più o meno già sensibili all'argomento. Ecco, ci sono stati interventi da parte di singoli rappresentanti delle altre quartieri vicino a Tor Pignattara, come il comitato di quartiere dal Pigneto o dalla Certosa. Tutti sono stati interventi molto determinati a creare una rete di realtà che stanno cercando di vivere i territori in un altro modo che sia sostenibile, per renderli autosufficienti dall'ormai manifesta incapacità di tutte quante le istituzioni. Ecco, c'è stato anche un siparietto divertente, cioè divertente per l'assemblea, ma non per rappresentante del municipio che è intervenuto, che è il municipio, ricordo, di centrosinistra, anche, insomma, se questa considerazione sappiamo che lascia il tempo che trova. Questo siparietto non è stato altro che un tentativo di fare un pianto greco sul fatto che le istituzioni hanno le mani legate e bla bla bla di questo genere qua, a cui però c'è stata una compatta e determinata risposta da parte di tutti quanti gli altri partecipanti, che hanno ribadito che quell'assemblea aveva come obiettivo una riorganizzazione della socialità a Tor Pignattara e non solo il blocco dei lavori a Perestrello, in cui le istituzioni, così come sono, non ci sono né utili e né sono ben volute. Ecco, insomma, un mezzo cappottone, diciamo, in cui ancora per una volta sono stati compagni a dettare il senso delle cose che si fanno insieme senza attendere la pappa pronta dalle istituzioni. Non vi annoio con l'introduzione che ha fatto, insomma, una compagna nel Nido di Vespe su tutto quanto il tecnicismo del piano casa, perché interessa poi direttamente chi si trova a lottare poi nella tecnica, insomma, di queste speculazioni. Però, cioè, comunque vi annoierei io, ma lì per lì è stato molto interessante, perché comunque viene svelata qual è l'arroganza con cui chi detta le regole poi le vuole mettere in pratica per speculare, praticamente, no? È interessante anche quello in ogni caso. E poi a seguire queste introduzioni ci sono stati diversi interventi che ribadivano la volontà di organizzare l'insofferenza della gente, perché c'è chi che insomma c'è questa insofferenza, cioè si sente ogni volta che si va là a volantinare. Un paio di interventi hanno pure sottolineato come la Torpignattara deve essere di chi la vive, quindi nelle prossime iniziative che faremo si farà comunque di farle congiunte con le comunità migranti che oggi come oggi vivono l'estate di Torpignattara molto di più degli italiani stessi. I problemi del quadrante quindi abbiamo capito che sono ben altri che la mancanza di case di quella zona là. L'assemblea tutta quanta quindi ha deciso di continuare a presidiare tutti quanti i mercoledì dalle 18 a Largo Perestrello e continuare quindi a organizzare iniziative di denuncia via via sempre più grandi man mano che la gente supera la diffidenza alla partecipazione. Quello che posso dirti personalmente è che la rabbia per come siamo costretti a vivere le nostre vite si sente ogni volta che parli con qualsiasi persona a Torpignattara, però c'è un po' di sfiducia sul darsi da fare, ecco. Cioè, poi ci vuole poco a convincere le persone che tutti insieme le cose si possono fermare e quindi c'è solo da suggerire le forme di lotta che siano includenti e che riportino ciascuno a essere protagonista insomma delle cose che vuole cambiare. Senti, questa sfiducia un po' si è riverberata anche nelle presenze, come tu dicevi, convenute a questo dibattito, nel senso che in realtà di diciamo abitanti del quartiere interessati a capire bene gli sviluppi di questa vicenda e che magari non frequentano abitualmente i punti di aggregazione dei compagni e delle compagne, non ce n'erano tantissimi. Com'è possibile, come ve lo spiegate, insomma, questo che non possiamo neanche ritenerlo un calo di interesse, perché poi in realtà quando voi provate, diciamo, a volantinare, a testare l'attenzione, avete anche un riscontro, per cui... Cioè l'interesse c'è, nel senso noi parliamo con le persone e loro si dicono è vero, bravi, meno male che ci siete voi, cioè avete ragione. Poi come sempre sono le persone più un po' più grandi, quelle un po' più grandicelle che ti fanno sentire di più la loro volontà a resistere, no? Dai ragazzi, cioè continuiamo così, è la strada giusta. Poi come dirti, cioè forse un po' la gente sarà spaventata perché comunque farsi un'assemblea cittadina pubblica non è proprio banale, non è facile, no? Specialmente per quel tipo di persone che non sono abituate a dibattere in situazioni in cui magari si alzano un pochetto i toni oppure a cui partecipano posizioni spesso troppo lontane tra di loro, no? Come noi delle organizzazioni libertarie, e poi ci stanno le istituzioni che poi troppo spesso cioè sono complici, no? In qualche modo dei crimini che poi si vogliono combattere. La cosa positiva però è che cioè, oltre ad esempio al cappottone, al tipo di Sinistra di Libertà e alla constatazione che fermare la costruzione del palazzo non è una cosa poi così banale effettivamente da fare, cioè comunque è stata una buona spinta da parte di tutti ad andare avanti in questo processo di riappropriazione degli spazi. Cioè questa in sintesi è l'assemblea di venerdì scorso, ecco. Cioè ci crediamo noi, ci crede la gente, è solo secondo noi una questione di organizzazione a questo punto, cioè perché se proponiamo qualcosa da fare alle persone, qualcosa che ciascuno può fare nel suo piccolo, poi questa cosa secondo noi può funzionare. Noi ad esempio oggi continuiamo a volantinare nonostante il freddo e la pioggia perché ci crediamo e piano piano qualcuno di noi percepisce che potrebbe crederci Torpignattara tutta quanta in base alle risposte che sentiamo dai singoli. Certamente. Dopo poi ci incontriamo in una riunione per organizzare le strategie di lotta insieme agli altri rappresentanti delle realtà dei quartieri vicini, come ti dicevo, no? Insomma qualcosa si muove, ecco. Beh, è importante... Se qualcuno vuole entrare in contatto con noi, la cosa più facile è andare sul sito dell'Orto in Sosto, diciamo, che è da dove più o meno è nata la cosa, insomma è nata l'idea, ecco. Poi la cosa si è allargata e cioè, non ne vorranno gli altri singoli, ecco, e le altre realtà che partecipano a questa cosa, insomma ci abbiamo come riferimento quello. Se qualcuno vuole entrare in contatto con noi può andare sul sito ortoinsorto.noblogs.org e mandare una mail e leggere le informazioni che cerchiamo di mettere. Cioè, non è uno strumento che è ancora completo, ecco, non è quello il mezzo che noi utilizziamo per comunicare. Noi stiamo per strada, noi parliamo con la gente, se qualcuno ci vuole incontrare viene in piazza, e se qualcuno però vuole mandarci una mail, l'unico contatto che abbiamo è questo sul sito per ora. Poi va benissimo, insomma, il dato che tu mettevi in evidenza, cioè il fatto che comunque il presupposto necessario affinché anche questi passaggi possano riuscire è proprio quello, no? Di ricostruirlo, un tessuto che ponga, insomma, in modo generale l'attenzione su questi ed altri problemi, un tessuto connettivo di confronto non solo tra le realtà, ma che riesca anche a intercettare la gente, perché è così, solo così, che evidentemente le battaglie possono essere vinte. Quindi speriamo bene, Fabrizio. Sì, d'accordo, allora. A presto, ciao. A presto, allora, ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao.